Abbiamo parlato da tantissimi giorni e in realtà a partire dal 28 febbraio abbiamo visto tantissime immagini sui social con questo grandissimo punto interrogativo davanti ai locali e la domanda, l'ultimo concerto con il 2021 appunto come data che potrebbe essere la data di fine dei live. Abbiamo pensato, visto che tra pochissimi giorni, il 27 febbraio, ci sarà questo evento in streaming, di parlare con una delle realtà bolognesi che hanno aderito a questa iniziativa, cioè con noi Angelo. Ciao. Che è benvenuto a Radio Città Fujiko, ci racconterà un po' del binario 69, perché appunto il vostro locale ha aderito a questa iniziativa, giusto? Sì, abbiamo aderito fin dal principio a questa iniziativa che va un po' a muovere, insomma, a scaldare i cuori, a riattivare anche proprio lo spazio del binario, pur solo in streaming e solo per una sera, però già riscaldare i motori mi fa riprendere contatto con la realtà e con la musica. Quindi voi siete positivi, cioè pensate che comunque ci sia la possibilità poi a partire da questo evento di un pochino riattivare, diciamo, come tu, scaldare un po' i motori e prepararci per una nuova stagione? Bisogna esserlo, ovvio che non è il periodo migliore per fare progettazioni a lungo termine, però se non bisogna mollare la segnale, insomma, bisogna stare un po' sul pezzo e prepararsi a quando poi avremo delle certezze anche a livello di protocolli per riuscire a riportare un po' la musica live nelle nostre città, ecco. Beh, che decisamente ci manca molto, insomma. Parecchio, no? Poi adesso appunto l'iniziativa va proprio a puntare sul fatto che un anno di fermo è tantissimo. Lo spazio proprio fisico del binario di fatto alla serata calata dal 23 febbraio. Qual è stato l'ultimo concerto del binario? L'ultimo è stato un trio jazz di Alessandro Vaccari. Abbiamo tenuto ancora la scritta sulla porta per qualche mese e poi con le lacrime agli occhi abbiamo dato una pulizia perché ci faceva troppo male. Però sì, è stato di fatto un anno fa e quindi comincia a pesare, insomma, comincia a pesare anche il fatto che ci siano poco anche movimento dei media e dell'opinione pubblica riguardo alla cultura, riguardo alla musica live, e questo è un peccato perché in realtà ci sono sia professionisti che musicisti che locali fermi da tanto tempo e ciò è un problema non solo economico ma anche proprio di esistenza e anche di un problema politico, soprattutto capire su dove puntare e perché secondo me potrebbe essere questa pandemia potrebbe darci l'occasione un po' per scrivere invece le politiche culturali di questo paese e delle nostre città. Pensi che ci sia un modo di, diciamo, sopperire a questa deprivazione culturale che ormai stiamo subendo da un anno, da appunto voi avete fatto l'ultimo concerto, questo evento a distanza, appunto, dicevi, di un anno dalla chiusura. In che modo secondo te ci si può muovere per risolvere questa situazione? Ma guarda, noi nell'ambito di questa iniziativa abbiamo preso contatto anche con tanti musicisti e con tanti operatori del settore. Io credo che ci sia da un lato una colpa anche di ogni settore per un po' anche la leggerezza con cui si affrontavano certi temi prima della pandemia, no? Sicuramente non era un settore facile in cui operare, non era un settore totalmente tutelato. E quindi da questi mea culpa si può ripartire. Dall'altro lato probabilmente bisognerebbe mettere al centro il fare musica, il fare arte, come molto spesso si mettono al centro altre priorità che possono essere l'automotive o il tortellino per quanto riguarda Bologna, insomma ripensare le città e il nostro modo di i volani economici mettendo come prioritaria lo stare insieme, la socialità e il fare cultura, potrebbe realmente cambiare anche proprio il tessuto della nostra società stessa e dare delle opportunità alle nostre generazioni che non ci stiamo ancora immaginando, ma che possono essere dietro l'angolo, insomma, riuscire a creare un'industria reale legata alla cultura sarebbe veramente un paradiso in terra, se vogliamo metterla in maniera religiosa. Certo, in tutti questi mesi noi anche nelle varie interviste e nella rubrica Please Don't Stop the Music abbiamo intervistato appunto tantissime realtà che hanno dovuto fare i conti con questi mesi molto difficili, e emergeva in tutti questa volontà di cambiare le cose, cambiare proprio il punto di vista rispetto al mondo della cultura, della musica, perché effettivamente sembra quasi un settore di serie B in tanti casi, e non deve esserlo invece. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto nudo e manifesto. Sono fuori dal coro, nettamente diverso, le mode se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di sulla traversa, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Gli eroi non se ne vanno, io resto e manifesto. Contro ogni occasione persa, i calci di rigore sulla traversa. Contro paranoia e tempeste, rimanere fuori, fuori dalle feste, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto, resto nudo e manifesto, faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo e manifesto. Secondo te invece questa soluzione dello streaming, che in questo anno è stato un po' una sorta di tampone, che è una brutta parola, tampone in questo contesto, però ha tamponato la mancanza degli eventi live, può comunque reggere ancora o non possiamo continuare a pensare che sia una soluzione a questa situazione? Guarda, la maggior parte dei progettisti in questo anno non stanno di fatto puntando realmente sullo streaming. Mi spiego meglio, molto spesso per fare un evento streaming e dare una sostenibilità devi trovare risorse altre. Molto spesso non è il biglietto online che ti riesce a far svoltare la paga e la sostenibilità di un cachet e tutto il resto. Quindi lo streaming sicuramente è stato un palliativo in questi mesi, ci ha fatto anche tanto bene al cuore, ma non è ovviamente la soluzione. Poi per chi fa musica live e quindi chi organizza, ma soprattutto per i musicisti che hanno poi l'espressione massima della loro ricerca, no? Dei loro progetti, del loro lavoro, tramite il rapporto col pubblico. Quindi secondo me bisognerà più che altro lavorare su nuovi protocolli, su nuovi modi di gestire la gente e l'evento di per sé, però lo streaming sicuramente non è una soluzione fattiva, non è una soluzione che può dare una continuità, ecco, di lavoro. Tu ci stai parlando a nome di Binario 69, appunto, dicevamo, però c'è anche un'altra realtà collegata a voi. Ti chiederei se ti va di raccontarcele le realtà nelle quali comunque voi vi occupate anche di musica live e di socialità. Sì, guarda, allora vabbè, noi abbiamo tenuto appunto chiuso il Binario per tanti mesi e continua a restare chiuso. In realtà siamo riusciti poi a riportare sempre la rassegna estiva nel Parco della Montagnola, è stato comunque un successo perché siamo riusciti a fare una quarantina di date che non era per niente scontato e fatte in sicurezza. Insomma, è stata una costruzione dello spazio e dei protocolli sotto quell'aspetto positivo e interessante. E poi appunto siamo sbarcati in montagna, ovvero abbiamo vinto un avviso pubblico per la gestione di un rifugio meraviglioso che sta qua a Montesole, sopra Marzabotto, e adesso siamo in attesa in realtà del nuovo bando di gestione, quello un po' definitivo, che potrebbe, nel caso in cui riuscissimo a essere riconfermati, potrebbe darci una gestione di 8-10 anni. E niente, quassù stiamo progettando invece un vero e proprio centro culturale. All'inizio si pensava a un rifugio con qualche evento, in realtà sta diventando una nuova idea di punto di comunità, insomma, che faccia anche produzione culturale, registrazioni, residenze, che vada anche poi a toccare non solo la musica ma anche il sociale e insomma tutti quei servizi, chiamiamoli, di comunità che magari in montagna possono essere un po' più difficili da trovare. Quindi quello che abbiamo visto, perché ricordiamo che abbiamo intervistato Cisco che suonava da voi proprio, insomma, prima della grande chiusura c'è stato questo bellissimo concerto in questo spazio appunto a Montesole e è stata una ventata d'aria fresca perché era un concerto in un periodo in cui per tanto tempo dei concerti non li abbiamo potuti sentire, quindi è stata un po', diciamo, una prova generale, possiamo chiamarla così, ma sarà molto di più forse quest'estate a Montesole. Guarda, nel caso di una riconferma noi abbiamo tante tante idee. Sicuramente la musica è sempre centrale nel nostro lavorare, e uno spazio così bello è sicuramente anche molto difficile, ma è uno spazio in sicurezza, che è un po' il nuovo modo di progettare gli eventi, perché ovviamente questo virus, questa difficoltà ci si è posta davanti e si esaurirà in poco tempo. Dovremmo un po' abituarci a ragionare su spazi più aperti, su spazi insomma controllati e costruiti a modo sia per fruire di una musica in maniera, diciamo, quasi normale da un lato, ma dall'altro in totale distanziamento, che è una parola che ahimè ci dobbiamo abituare a sentire. Veramente vivo in tempi bui, il pranzo, che ti dico arriva la marea e tu la scampi per entusiasmo. Veramente vivo in tempi bui e non ho nulla di cui preoccuparmi, perché sono diventato buio anch'io, ma di notte sono uguale agli altri e mi cambierò nome. Detto questo, però, noi avevamo iniziato con un altro discorso, insomma, con questo evento che si terrà il 27 di febbraio, quindi tra pochissimi giorni. Ecco, voi come locale ospiterete una band, ecco, la serata in generale come si svolgerà? Ma guarda, è uno streaming appunto dal binario e ospiterà di fatto, sono confermati al momento quasi 40 musicisti e sempre quasi 30-40 gruppi, ovviamente con dei cambi palco molto rapidi, anche lì è stato difficile farlo in sicurezza, ma ce l'abbiamo fatta. Di fatto va un po' a presentare la scena che abbiamo sempre toccato, che è la scena bolognese e locale, è una scena che ha davvero dei progetti di super qualità e che ci piaceva riproporre, insomma, per far capire anche quante persone sono ferme da tempo. La maggior parte dei musicisti sono passati da magari chi ha suonato l'ultima volta nel 2019 addirittura, a chi faceva 100 date all'anno, 150, è passato a veramente meno di 10. Quindi insomma il problema è reale, poi si parla di musicisti ma c'è tutta la filiera che gli sta dietro, quindi per noi appunto aderire all'iniziativa insieme agli altri 130 locali e live club d'Italia era doveroso ed è stato anche da un lato appunto ricominciare a lavorare dopo tanto tempo, dopo tanto fermo, ti fa bene sia a livello umano che a livello poi di prospettiva, cioè solo riagganciare i rapporti con quelli che erano i tuoi fruitori naturali, no? Dello spazio binario, quindi musicisti appassionati, già solo quello fa sentire una comunità che si sta soffrendo ma ha tanta voglia di ripartire e ripartire con regole nuove. Questa è un po' l'idea. Perfetto, allora ricordiamo che per seguire l'evento ci si può collegare al sito dell'ultimo concerto e a partire dalle 21, se non sbaglio, inizieranno tutti i live dei 130 locali, se non sbaglio, giusto? Ok, quindi ricordiamo a tutti che c'è questa possibilità, insomma, di risentire della musica dal vivo, anche se non in presenza, ma che ci dà appunto un po' una speranza, diciamo, no? In un qualche modo. Io Angelo ti ringrazio. Le adesioni sono state massive e anche di grandi gruppi, quindi secondo me è da un presente. Perfetto, infatti poi ricorderemo poi in questa settimana tutti i gruppi che hanno aderito, cioè gli Zen Circus, i Subsonica, ma anche Cisco che suonerà a Carpi se non sbaglio, quindi appunto tanti artisti che hanno deciso di partecipare. Io ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa chiacchierata. E grazie a voi. Ti chiedo se vuoi mandare un messaggio alle ascoltatrici e gli ascoltatori e anche se vuoi scegliere una canzone per chiudere questa chiacchierata. Ah, attenzione, vedi, è difficile. E beh, a questo punto io siamo in montagna e quindi vi chiederei Ribelli della montagna di Cisco, già che l'abbiamo citato. Niente, vi aspettiamo appena si ripartirà, vi aspetteremo in tutti gli spazi, speriamo sempre sorridenti e sempre sculettanti e ballerini. È un ottimo messaggio, perfetto. Allora noi sculettanti e ballerini ci ascolteremo questo pezzo e ci sentiamo presto, grazie mille. Grazie a te. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Atos. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la quella.